ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più. Dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri, anche per me. Benvenuti a Dedicato! Ciao mascotte, bentornata tra noi. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, casomai, sono le 13, quindi bonjour. Io sono già nel mood notte. Ah, lei è già nel mood notte, vabbè, mascotte. Lo sapete voi che io dormo sempre. Io sono sempre nel mood nanna. Nanna, il mood nanna, quello che piace a noi. Ma noi invece, nanna, noi siamo adesso in radio per dire una cosa importante questa settimana, mascotte, perché oggi è il 26 novembre, ieri era il 25 novembre, se tanto mi dà tanto, e il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. Molto bene, mascotte, ti vedo preparata. E... no, sapevo soltanto questa battuta. Ah, ok, avevi studiato proprio a memoria, sì, il copione? Sì, avevo studiato soltanto questa. Sì, ma non ce l'abbiamo il copione, quindi non so che cosa potrei allora aver studiato. Allora che copione ho studiato? No. Ah, è vero, l'ho trovato su Google. Su Google, ok. Noi comunque qui andiamo a braccio, non abbiamo copioni, non abbiamo testi e possiamo dire una cosa, è una giornata importante. Questa sì. Poi in realtà è la settimana contro la violenza sulle donne, perché ci sono veramente mille iniziative, mille cose che succedono ovviamente non solo nella nostra città, noi nel nostro piccolo, il nostro contributo lo diamo, perché al di là di questa puntata, ieri sera alla casa di quartiere Croce Coperta abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo, Clichépolis, bellissimo, me lo dico da sola, ma vabbè, spero che chi l'ha visto la pensi come me. Vero! Ma è uno spettacolo, insomma, proprio contro la violenza sulle donne e che riporta in chiave ironica e comica a degli sketch degli anni 50 radiofonici. Ero in scena con Luisa Vitali, che è oltretutto insegnante di un laboratorio qui a Radio Città Fujiko, che è il laboratorio Voice on Air, quindi insomma era una grande reunion e devo dire che è stato partecipato, interessante, bello. Noi ci siamo divertite a lanciare un input. Gli input sono sempre quelli, no? Contro la violenza sulle donne. Mascotte, cosa avrebbe da dire lei? Ci dica qualcosa. Allora... è una cosa davvero molto ingiusta, per prima cosa. E lo dico da donna io. Da donna, soprattutto donna. Secondo me è una cosa davvero molto ingiusta la violenza sulle donne, perché molte volte, anzi quasi sempre, ci sono degli uomini che pensano di essere più forti delle donne, che pensano di essere più potenti e per questo si sentono quasi in obbligo di poter farci quello che vogliono, come se le donne fossero un oggetto. Mascotte, purtroppo sì, purtroppo ancora oggi ci sono quotidianamente dei femminicidi. Insomma, esatto, femminicidi, quindi purtroppo la mascotte già a 11 anni sa che cosa sono i femminicidi e perché i motivi per cui queste donne devono subire violenze ancora nel 2025, perché Devo dire che sono veramente troppi anni che andiamo avanti con questa storia della violenza. Ma Scott, mi dica. Allora, una volta nella mia vecchia classe, quando andavo ancora alle elementari, i miei compagni, il giorno della festa della donna, avevamo fatto tutti insieme un cartellone con scritto i nostri pensieri sulla violenza sulle donne. I miei compagni hanno detto: sì, però non è giusto, perché anche i maschi dovrebbero avere una festa. E io ero tipo: cosa? Ok, questo è un punto di vista interessante sia dei tuoi compagni che il tuo. Allora, i tuoi compagni, secondo te, perché hanno detto una frase di questo tipo? Perché i miei compagni erano stupidi. Ah, ok, va bene, abbiamo dato una soluzione così, al volo. Secondo me perché... Se mi ascoltate, compagni, non è affatto vero. Cioè, la maggior parte di voi no. Però alcuni sì, c'erano certi individui che erano abbastanza cioccati. Cioccati, ok. Cioè, quei due che ti hanno risposto così, insomma. Sì, non prendetevi quei due. Cioè, nel senso, non facciamo, ecco, come dire, di tutta un'erba un fascio. C'erano due personaggi X... in questa classe. Che non diremo, perché sennò poi si offendono. Ecco, non diremo assolutamente, ma gli altri, ecco, erano dei ragazzini, dei bimbi che ragionavano in maniera diversa. Però secondo me questi due che ti hanno risposto così pensavano: beh, anche i maschi hanno i loro diritti. Ma perché invece tu hai risposto: che cosa? Cioè, perché, che non stava né in cielo né in terra questa perché cosa. Perché i maschi sono stati... non so neanche come dirlo, privilegiati o trattati bene per tutto... Per secoli, per un sacco di tempo. Il giorno dei maschi è stato per secoli. Cioè, ok, tutti i giorni era il giorno dei maschi, dici tu. E adesso, finalmente, anche le donne sono pari ai maschi, soltanto che alcuni maschi ancora non hanno capito che le donne e gli uomini sono uguali. Beh, proprio uguali no, perché questo è un altro concetto che dobbiamo andare poi a sviscerare, ma mi piace questo tuo ragionamento, sono uguali nei diritti che hanno, sì. Ok? Pensate anche che tanto tempo fa le donne non potevano neanche votare. Esatto, non potevano votare. Abbiamo potevano... visto un film, io e te, come si chiama? Quello dove la ragazza andava a votare. La ragazza era Paola Cortellesi che andava a votare, sì. Che finalmente, dopo la soggiogazione di suo marito, che la trattava male, la picchiava e doveva fargli da schiava... Perché le donne tanti anni fa, all'inizio del 1900, erano le schiave degli uomini. Esatto. E alla fine del film va a votare, finalmente. Ti vedo anche un po' arrabbiata in questa cosa. Sì. Hai ragione, Mascotte. A parte che c'è il mio peluche che mi abbraccia, quindi sono meno arrabbiata. Ah vabbè, okay. I peluche risolvono sempre tutto, vero? Venite qua. Però il problema qual è? Sì, si è circondata di 5 peluche per non arrabbiarsi. Però il problema effettivamente è cosa? Che abbiamo parlato di questo del 1900, abbiamo parlato del Medioevo, abbiamo parlato di varie epoche storiche, ma che ancora nel 2025 siamo a questi livelli dove i femminicidi sono quotidiani, le donne che subiscono violenze sia per amore, sia per inerzia, sia per violenza in strada, sono... violenze quotidiane, ancora oggi nel 2025. E sono la cosa più ingiusta che esista. E sono la cosa più ingiusta che esista. Mascotte, mandiamo un brano? Sì! Bye, did you think? Gloria Gaynor, I Will Survive, che noi abbiamo sempre ballato dai miei, non so, penso 15 anni così, no? Canticchiandola, sballocchiandola, però ha un testo, ragazzi, che è veramente molto interessante, molto interessante. Anche la mascotte è rimasta stupita, adesso non so, è momentaneamente scomparsa, quindi io ne approfitterei, dato che noi abbiamo un po' di donne che girano intorno allo staff di Dedicato e che hanno da dire la loro, come spesso accade nelle nostre trasmissioni, darei voce al nostro staff. Mi guardi, ti guardo. La tua paura squarcia la mia carne. Il tuo viaggio è ancora lungo verso l'amore, che è altro da te. L'amore non è violenza, è libertà. E noi donne dobbiamo smettere di pensare di essere una forza minore. E noi, senza di noi, il mondo non cambierà. Dobbiamo essere in prima fila per continuare a lottare per i nostri diritti e per quelli delle nostre figlie e dei nostri figli. Dobbiamo resistere e portare avanti le lotte degli anni passati, adesso sempre di più, con più forza. Obrero campesino, antifascista, español patriota, frente a la sublevación militar fascista, todos en pie, a defender la república, a defender las libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo. A través de las notas del gobierno y del Frente Popular, el pueblo conoce la gravedad del momento actual. Al grito del fascismo no pasará, no pasarán los verdugos de octubre. Los obreros y campesinos de distintas provincias de España se incorporan a la lucha contra los enemigos de la República alzados en armas. Los comunistas, los socialistas y anarquistas, los republicanos demócratas, los soldados y las fuerzas fieles a la República han infligido las primeras derrotas a los faciosos que arrastran por el fango de la tradición el honor militar de que tantas veces han alardeado. Todo el país vibra de indignación ante estos desalmados que quieren hundir España y la democracia en un infierno de terror y muerte, pero no pasarán. España se dispone al combate. En Madrid el pueblo está en la calle apoyando al gobierno, estimulando con su decisión y espíritu de lucha para que llegue hasta el fin en el aplastamiento de los militares y fascistas sublevados. Jóvenes, preparaos para la pelea. Mujeres, heroicas mujeres del pueblo, acordaos del heroísmo de las mujeres asturianas en 1934. Luchad también vosotras al lado de los hombres para defender la vida y la libertad de vuestros hijos, que el fascismo amenaza. Soldados, hijos del pueblo, manteneos fieles al gobierno de la República. Luchad al lado de los trabajadores, al lado de las fuerzas del Frente Popular, junto a vuestros padres, a vuestros hermanos y compañeros. Luchad por España, trabajadores de todas las tendencias, que nadie vacile, todos dispuestos para la acción. Cada obrero, cada antifascista debe considerarse un soldado en armas. Pueblos de Cataluña, pueblos del País Vasco y Galicia, españoles todos, a defender la República Democrática, consolidar la victoria. El Partido Comunista os llama a la lucha. Os llamo especialmente a vosotros, obreros, campesinos, intelectuales, a ocupar un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. Viva el Frente Popular, viva la unión de todos los antifascistas, viva la República del Pueblo. Los fascistas no pasarán, no pasarán. Donne allo sbaglio. E abbiamo ascoltato Zucchero con Donne, altra canzone super canticchiata in anni passati. Allora qui, insomma, questa scelta perché? Perché questa scelta? Perché lo staff di Dedicato è vario e variopinto, come dico molte volte. Quindi ognuno ha un po' il suo punto di vista. Quando c'è il confronto sulla scelta delle musiche, dipende chi c'è in quel momento in studio, e quindi insomma, ecco, diciamo che non posso sempre scegliere io e arrogarmi questo diritto di essere la DJ di questa trasmissione, quindi accettiamo anche le scelte altrui. Questo per spiegare che siamo passati da Gloria Gaynor a Zucchero e non so dove andremo a parare, però continuiamo sicuramente ad ascoltare le nostre donne e il loro punto di vista su questa giornata che è importante, rimane importante, può sembrare una giornata di facciata per alcuni punti di vista, ma è importante parlarne, continuare a parlarne, quindi insomma non molliamo perché più che mai in questo momento storico ce n'è bisogno. Credo che uno dei problemi fondamentali legati ai femminicidi parta anche un po' dal nostro linguaggio, perché tendiamo molto a dire mio marito, il mio ragazzo, mia moglie, la mia ragazza, esprimendo proprio un possesso molto più legato agli oggetti e che non dovrebbe mai riguardare le persone. E credo che questo modo di usare le parole e i termini crei poi anche un disguido di tipo proprio concettuale. Forse bisognerebbe chiamarsi per nome, chiamare per nome le persone con le quali si hanno dei legami sentimentali, ma lasciando sempre comunque la libertà e l'indipendenza a noi stessi e alle altre persone. Credo che sia un concetto importante da trasmettere alle nuove generazioni, quindi sì, credo che questa sarebbe già un modo un po' per considerare diversamente i rapporti. Purtroppo quello che sta succedendo sempre più spesso, nonostante l'attenzione anche da parte dei media, sembra quasi proprio una cosa che non riesce ad arrestarsi, c'è proprio bisogno di un'educazione diversa. Quello che secondo me su cui dovrebbe puntare, se dico un intervento, dovrebbe essere il concetto proprio di società, l'attenzione che la politica dà a questo aspetto, ma è soprattutto un problema culturale, non c'è altro da dire. Di base io credo che la maggior parte delle storie di violenza domestica e di genere siano collegate proprio a culture radicate, c'è proprio il lavoro sociologico, psicologico da fare dietro, cioè dovrebbe essere attenzionato in maniera completamente diversa. Femminicidio. Che dire? L'Italia è diventata una piccola Gaza infatta di femminicidi. Guerra creata, come sempre, da uomini miseri, uomini che non si arrendono quando la loro compagna vuole andarsene, per esempio, dopo anni di botte, umiliazioni, paura per i suoi figli, paura di morire. Sono sole, la giustizia vuole essere impotente, invece di condannarli seriamente ci sono dei figli di mezzo, piccoli, li lascia liberi come se avessero rubato una mela. In un paese dove è tornata la di moda Dio, patria e famiglia, quando ci sono di mezzo le donne, la famiglia è quella più abbandonata. Loro, gli inadatti alla vita, arrivano ovunque, con una rabbia che cresce quando si guardano allo specchio, uccidono in modo premeditato, poi se va bene si suicidano. Perché non avete il coraggio di farlo prima di arrivare ad uccidere? Sarebbe il vostro primo atto di coraggio. E a questo punto siamo arrivati alla fine di questa puntata, una puntata di donne con le donne per le donne, quindi grazie donne, che dire, grazie alla mascotte che è scomparsa, ma lei lo fa, arriva, poi va, poi viene, insomma è così, è una donna anche lei e ha giustamente i suoi pensieri e i suoi diritti di decidere dove andare e cosa fare quando lo vuole fare, quindi bene così. Detto ciò, io però prima di salutarvi devo fare un discorso serio, ma serio sul serio. Perché? Perché quest'anno Radio Città Fujiko, ragazzi, compie 50 anni. Cioè, mica bruscolini, 50 anni voglio dire, cioè ha più anni di me. Effettivamente sì, di poco, ma comunque ha più anni di me. Quindi intanto tanti auguri Radio Città Fujiko, perché noi di Dedicato siamo veramente felici di fare parte di questo mega collettivo, gruppo di lavoro, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, che è questa radio, perché sono veramente tutte persone eccezionali. Io vi voglio dire, dal mio punto di vista, è la miglior radio che c'è in giro, quindi poche storie. Poi non dite che sono di parte, perché io di radio ne ho ascoltate e ne ascolto parecchie, quindi passatemi sta cosa, anche perché se ci state ascoltando, secondo me non la pensate tanto diversamente da me. Tanti auguri Radio Città Fujiko, e però c'è una sorpresa, perché per i nostri 50 anni c'è un meraviglioso fumetto in arrivo con la campagna abbonamenti. Quindi ora vi beccate sicuramente il jingle della campagna abbonamenti, nonché dovete abbonarvi assolutamente, perché c'è veramente questo fumetto che è delizioso, stupendo, che non potete non avere. Quindi eccovi a voi il jingle, poi noi ci sentiamo la settimana prossima alle 13, sempre mercoledì, su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Abbiamo 50 anni, portati con rispetto, se ti abbonerai la radio guadagni. Era un fumetto che racconta un po' di storie, non certo ordinarie, di Città Fujiko, una radio comunitaria. Scopri come abbonarti su www.radiocittafushiko.it/abbonamenti.